Questa volta tocca alla Florida, uno stato atlantico con un bel clima dove svernano miliardari e pensionati abbienti, una meta turistica tra le predilette anche di molti italiani per la presenza della famosa Disneyland. È un'immagine da cartolina che non corrisponde però alle condizioni carcerarie e al modo in cui viene applicata la giustizia, perché la Florida, che si pregia di aver ospitato gli ultimi mammut della Terra, è probabilmente ha delegato la giustizia ad andarsi ad insediare nell'animo di un mammut, perché tale è quella la situazione attuale appunto della giustizia sia penale che sociale in Florida. Questo stato visitato da milioni di bambini estasiati davanti ai topolini e ai paperini alti 3 metri e registra però nei suoi ospedali pediatrici un altissimo numero di bambini che, a causa della somministrazione del famigerato Ritalin, un farmaco poi approdato infelicemente anche in Italia, e sono rimasti intossicati e viene usato per curare la depressione dell'infanzia, ma più che altro per scevrare i genitori dal peso e dalla responsabilità di crescere i propri figli. Il procuratore generale della Florida, che è una signora, si dice preoccupata per le condizioni giovanili dello Stato, però usa 2 pesi e 2 misure, perché da un lato si preoccupa di mantenere i ragazzi bianchi sulla retta via, mentre si limita poi ad avvertire soltanto quelli di colore di non abbandonarsi alla dissolutezza, come se le minoranze avessero una naturale tendenza ad essere i mascalzoni. E il governatore dello Stato, Jeb Bush, ha anche lui una sua personale concezione dell'animo umano, perché per quanto riguarda le pecorelle smarrite da ricondurre sulla retta via, ha affidato questa incombenza alla religione, varando un piano costato $5 milioni, che affida appunto alla religione il recupero dei detenuti. Due carceri, l'Hillsborough Correctional, Marion Correctional, sono oggi divenute le prime due carceri a conduzione, potremmo dire, apostolica. Marion è una prigione costruita peraltro sulle terre che una volta appartenevano ai Seminoles e che vennero loro sottratte dai bianchi. Anni fa le prigioni della Florida ebbero un momento di grande popolarità, perché per consentire a Paul Newman di interpretare il personaggio di un amabile scavezzacollo arrestato per furto, maltrattato poi bene dalle guardie, che si chiamava Nick Manofredda, e venne ricostruito il carcere di Tavares all'interno degli studi hollywoodiani. Oggi la situazione non permetterebbe certo un'esposizione così gradevole delle condizioni carcerarie, perché a Rayford, soprattutto dove si trova il braccio della morte, Rayford è teatro di più incidenti, purtroppo tutti a danno dei detenuti che vengono uccisi. Frank Valdez è rinvenuto addirittura con lo sterno fracassato dopo essere stato pestato dalle guardie. De Vries, che fu uno dei testimoni, venne anche lui picchiato a sangue. Bisogna dire che lo Stato della Florida, quando si tratta di liberarsi di soggetti scomodi, non bada molto alla maniera in cui ci si libera. Nel 79 il governatore di allora, Graham, che era anche lui proveniente da una famiglia di cospicuo patrimonio, respinse tutti gli appelli a favore di John Spanklink, che divenne così il primo uomo giustiziato dopo il ripristino della pena capitale avvenuto nel 1976. Dal 1998 la Camera della Morte ha cominciato ad uccidere anche le donne. È stata giustiziata il 4 aprile del 98 la 56enne Judy Buenanno Goodyeard, e nel 2000 la Florida si è invece liberata della prima donna serial killer della storia degli Stati Uniti, Eileen Wuornos, che per tutta la vita aveva conosciuto soltanto violenza, violentata dal proprio padre, poi finito anche lui suicida. Ma per la legge non era che una prostituta, un'assassina e una persona, cioè, di cui liberarsi in fretta. In questo Stato che affida alla religione il recupero dei propri reclusi non è consentito evidentemente essere brutti, sporchi e cattivi. Mi auguro che il film, in arrivo al 30 aprile in Italia, sulla vita della sfortunatissima Eileen Wuornos, giustiziata per volere del fratello dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, le renda, anche se in minima parte, giustizia. Vi saluto, Bianca Cerri per Amismet, Reporter Associati.